Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo anche per questa stagione di Personal Best e come ormai tradizione in questo periodo parliamo di scarpe da running e lo facciamo con il designer Filippo Pavesi, bentornato. Grazie, saluti a voi e buongiorno a tutti, soprattutto ai mattinieri che ci ascoltano alle 6:30 di mattina, pronti per andare a correre. Filippo, allora ci siamo lasciati lo scorso anno con grandi prospettive di mercato anche legate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che come sappiamo sono slittate al prossimo anno. Negli ultimi mesi del 2019 si parlava con grande entusiasmo di innovazioni tecniche nella progettazione di nuovi modelli di scarpe da running sulla scia un po' di quel record di, sulla maratona di Eliud Kipchoge a Vienna e le sue scarpe con la lamina di carbonio. Entusiasmo che il coronavirus purtroppo come in tantissimi ambiti ha però stupito. Filippo, è così o è solo un'impressione? No, direi che è assolutamente così, anche se i grandi brand si sono fermati, ma forse in maniera un po' diversa da quella che ci aspetteremo, nel senso che se io come tanti altri a un certo punto ho smesso di correre aspettando tempi migliori, le aziende in realtà tutte le cose le devono preparare di norma anche 12 mesi prima. O perlomeno parecchi mesi prima, 12 o 24 mesi, poi a seconda dell'impegno dei progetti, eccetera, sono i tempi minimi per lo sviluppo e poi la traduzione in produzione dei nuovi progetti. Per cui le aziende, le cose per le Olimpiadi di Tokyo che avrebbero dovuto essere quest'estate, le avevano pronte da tempo. C'è una cosa da evidenziare. Tradizionalmente, negli anni olimpici, naturalmente c'è una enfasi particolare da parte di tutti sullo sviluppo dei modelli da gara, da maratona in particolare, perché la corsa su strada rimane sempre una delle attività più praticate, in particolare parlando di running atletica, una delle cose più praticate in tutto il mondo. Però nell'anno olimpico tutte le aziende si danno sempre da fare proprio per cogliere l'occasione della vetrina globale, mettendo le scarpe nei piedi dei loro atleti, che poi facendo un piccolo passo retroso vuol dire che nella realtà già un po' di mesi prima sostanzialmente ai trail americani che quest'anno sono stati ad Atlanta a febbraio, che sono come molti sapranno l'occasione per selezionare i 3 partecipanti americani che porteranno la divisa stelle e strisce alle Olimpiadi. Quest'anno appunto sono stati a febbraio ad Atlanta e sono appunto la tradizionale occasione in cui debuttano le novità. Okay. Alcune ancora non così definite, qualcuna ancora un po' in incognito e quant'altro. E cosa che è successo anche quest'anno? Sì. Quest'anno però ci sono state un paio di cose assolutamente particolari. Faccio ancora un altro piccolo passo indietro. Sì. Poco prima la World Athletic, come molti sanno il nome che da un po' di tempo ha assunto la IAAF, sì, la Federazione Internazionale dell'Atletica, è uscita pubblicando le nuove regole proprio relative alle scarpe da gara. Sì. E ed è stata una certa sorpresa perché combinazione alcuni dettagli con dei limiti particolari come per esempio la misura massima dell'altezza della suola sono stati ravvisati immediatamente e con precisione nell'ultimo modello della Nike che era stato portato al debutto dopo la corsa di Kipchoge a Vienna. Traduco, sì, è stato fissato un limite massimo dell'altezza della suola in 40 mm, quella la versione della scarpa di Kipchoge che poi la Nike ha chiamato Alphafly, che ha presentato poco dopo, è alta esattamente 40 mm e ha altri dettagli come esattamente un plate fatto in un certo modo, così come è stato stabilito da World Athletic. Sì, facciamo un passo indietro, quindi, Filippo, scusami, una precisazione. Quindi la Nike lancia questo paio di scarpe, contengono una lamina in carbonio, si parla un po' di doping tecnico, diciamo la IAAF va ancora un po' ai ripari per cercare di limitare un po' forse la questione e quindi vengono introdotte delle misure a questo punto. Diciamo che è così e in parte naturalmente ci sta. La cosa che ha destato qualche diciamo domanda è stata una particolare coincidenza. Per esempio è stato stabilito che ciascuna scarpa può avere sì un plate in carbonio e senza descrivere più di tanto le caratteristiche del carbonio del plate, purché però sia uno o più parti, ma complanari. No, io volevo solo chiederti una cosa, Filippo, che secondo me è importante da dire, ma qual è il vantaggio di questa lamina di carbonio? Cioè, solo per questi, perché magari appunto se lo possono chiedere, no? Tutte le persone che corrono, ma anch'io me lo chiedo, cioè se lo metto io lo noto dei vantaggi oppure insomma solo i top lo notano? Io scorporerei la domanda. Una, okay. Quali sono i vantaggi? Due, se lo noti tu o Silvio, o piuttosto se lo noto io, okay. Che sono il più sgalfo di qua, direi senza dubbio. Allora, la prima cosa, il carbonio certamente ha una funzione enorme e un'importanza fondamentale, perché agisce in almeno quattro aspetti diversi. Okay. Il primo è semplicemente una cosa geometrica. Il carbonio, questi plate, sono quasi inflessibili, cioè piegando la scarpa funziona quasi come se fosse completamente rigida. Quindi l'effetto pratico è di allungare la leva con cui il piede va a spingere. È come se il nostro piede, anziché spingere piegandosi dove si piega normalmente la testa di metatarsi, spingesse come se noi avessimo il 52, tanto per parlare di scarpa che noi abbiamo. La seconda cosa è il carbonio è un materiale molto leggero, estremamente elastico. Con pochi grammi si riesce a fare un plate sottilissimo. E quelli che ho visto io sono meno di un millimetro di spessore, che distribuisce le pressioni anche. Quindi funziona anche come piastra che distribuisce le pressioni su tutto il materiale che è sotto. Ed è il secondo modo in cui funziona. Il terzo, essendo molto elastico, anche lui ogni volta che viene sollecitato, soprattutto questi plate di queste scarpe qua non sono affatto piatti, come erano tanti anni fa, ma hanno una certa sagoma, io direi, pensate alla forma di un cucchiaio, anzi di una forchetta. Okay. Guardate una forchetta di fianco, che c'è la curvatura verso l'alto dove si mette il cibo, poi c'è il manico che fa una sinusoide dove poi andiamo a impugnare. Ecco, hanno una forma un po' così questi plate. Quindi in sostanza sono concavi sotto l'avampiede, poi salgono, c'è quasi una convessità sotto l'arco plantare e poi si spianano risalendo leggermente verso il fondo. Con questa forma qua, in pratica, ci sono anche diverse curvature, ciascuna delle quali ogni volta che viene caricata accumula energia elastica. Okay. Quindi di nuovo ci sono almeno due curve che a loro volta si caricano elasticamente di energia durante la compressione. Quindi quella, scusami Filippo, ti fermo un attimo, quella limitazione di 40 mm di cui si parlava prima è anche per evitare che ci sia proprio un effetto molla, insomma, per lasciare meno margine possibile. No, no, l'effetto molla c'è di sicuro, non si è posto il problema di evitare, l'effetto molla c'è di sicuro. Diciamo per mettergli un confine. Ho detto la terza cosa è l'effetto comunque di accumulo elastico dell'energia. Il quarto è la stabilità, perché questi plate di carbonio vengono inseriti in schiume estremamente morbide, estremamente leggere. L'ultima, che poi alla fine è quella che interessa di più, Silvio soprattutto chiedeva Ivan prima, o anche me, è a noi che ci frega. A noi frega perché tra le altre cose queste soluzioni qua sostanzialmente fanno risparmiare energia. Prima di tutto permettono a noi di risparmiare energia. Cioè la scarpa diventa veramente un'interfaccia tra noi e il terreno con una resa ottimale, almeno quelle degli atleti hanno la resa ottimale anche perché alcune sono state studiate ad hoc, ovviamente per chi chiede sono state studiate ad hoc. Per gli altri sarà un po' meno ottimale perché non hanno atterratura individuale, però avranno un'elasticità fantastica combinata con tutte queste altre cose che ho detto, quindi sarà un prodotto estremamente valido che si mette tra noi e il terreno, che avrà un rimbalzo fantastico e che ci aiuterà a nostra volta quindi a non sprecare energia, che è la cosa più importante. E quindi sprechiamo meno energia, non andiamo più veloci, diciamo. No, sprecare meno energia su una distanza come la maratona ovviamente si permette quella cosa. Una roba che si traduce in andare più veloci. Eh sì, perché comunque siamo meno affaticati e quindi possiamo andare più veloci. Ok, allora dopo vado a comprarle. Cioè, noi abbiamo parlato di Nike, però in particolare, Filippo, dobbiamo dire che anche tutti gli altri marchi sono andati un po' a seguire insomma questa tecnologia in qualche modo. Assolutamente no? Sì. Brooks, Hoka, e non è solo che ci sia solo la Nike, per carità. La Nike, chiaramente, se non altro per le prestazioni di Kipchoge, i risultati che ha avuto lui nelle due prove, che poi in realtà, come sapete, non erano nessuna delle due delle vere maratone, perché sono stati due esercizi, diciamo così, fatti su un circuito organizzato ad hoc con una serie di cose organizzate. Però, tuttavia, Kipchoge detiene con, se non ricordo male, 2-1 e 39. Quindi gli manca poco, insomma, no? Anche in gare vere maratone organizzate secondo tutti i canoni ufficiali. Devo dire, detto questo della Nike, chiaramente anche molte altre aziende da anni si preparano per le Olimpiadi e come da sempre hanno seri dipartimenti di ricerca e sviluppo che lavorano. Tra tutti uno dei sicuramente dei migliori, quello della New Balance, guidato da Sean Murphy, che tra parentesi è un biomeccanico con cui ho avuto il piacere di lavorare negli anni di fila, molto bravo, sta facendo un grosso lavoro. Infatti la New Balance ha introdotto già da maggio scorso almeno due modelli che loro definiscono data driven, cioè derivati proprio dai dati scientifici che abbiamo rilevato noi, che in pratica il primo che hanno fatto l'hanno chiamato 5220 ed era una scarpa per il miglio. Sapete che negli Stati Uniti e nei paesi anglofoni sono molto importanti le gare sul miglio. Sì. E sì, sì. In particolare la New Balance ha fatto questa bellissima scarpa per il miglio con un plate con una rigidità monodirezionale, cioè funziona, diciamo, come il plate di carbonio della Nike nel senso della lunghezza, ma lateralmente flessibile. Quindi permette un miglior aggiustamento, un certo grado di libertà anche quando si impatta lateralmente, e secondo Murphy e altri è una caratteristica preferibile. Infatti queste scarpe funzionano anche molto bene. Altre scarpe che invece ottime, che io ho già avuto il piacere di provare, che sono già reperibili in Italia, sono ad esempio le Brooks, la Hyperion Elite, questa io l'ho già provata, e in effetti è una scarpa che funziona molto bene, estremamente leggera, ha un bellissimo plate, loro dicono con una costruzione a spina dorsale, cioè nella parte centrale c'è addirittura una costolatura di irrigidimento, per cui riescono a farlo ancora più rigido con un peso quasi record, diciamo, per quanto riguarda il plate. L'hanno messo in un'intersuola leggerissima, è una scarpa che loro garantiscono per, mi pare, 200 km. Quindi è abbastanza poco. Pochissimo. Sì. Ivana, mezza settimana praticamente. Ti prepari per la maratona, ci provi una mezza o due, dai. È finita. Qualcosa, e poi dove la maratona. A questa seguirà Gian, già annunciato anche loro, mi pare, da settembre-ottobre, la seconda versione, che invece avrà un compound più duraturo, anche nell'intersuola. Entrambe, tra l'altro, sono scarpe usate e messe a punto soprattutto con Desiree Linden, che è l'atleta che ha vinto Boston, mi sembra, due anni fa, se non ricordo male, e che ha portato anche la nuova versione già al debutto ad Atlanta. Direi, oltre a questi, ci sono sicuramente con ottime prestazioni quelle fatte dalla Oca. La Oca, come sapete, è l'azienda che ha un po' reinventato, diciamo così, il concetto di protezione, no? Io mi ricordo, l'ho detto forse in altre occasioni, che qualcuno scherzava, diceva, forse era Woody Allen, la Nike ha inventato la scarpa con i cuscini, con il cuscino. Ed è vero, perché quando la Nike è arrivata negli anni 70 sul mercato, le Puma e Adidas che gli altri facevano per l'atletica erano molto più dure. E grazie a questi cuscini la Nike ha preso il mercato del road runner, quello del running boom degli anni 70. Eh sì, com'è che si chiamavano? Air qualcosa, ti ricordi? Sì, la Air Tailwind è stata la prima, ma prima l'hanno fatto dall'Elite, hanno inventato, diciamo, quelle con i tacchettini famosi, i famosi waffle fatti sulla piastra, rubata alla moglie, dove la moglie cuoceva i waffle, infatti l'hanno chiamata sulla waffle. Stavo dicendo la Oca, ad esempio, che ha inventato il concetto delle scarpe con due cuscini addirittura, dopo che la Nike ha inventato quella matrimoniale, cucina, no? Diciamo. La maxi scarpa è stata un'invenzione di due francesi che con esperienze precedenti hanno capito l'importanza della geometria e hanno inventato queste suole con il doppio di spessore, il doppio di materiale sotto ammortizzante, che sono risultate confortevoli quasi il doppio rispetto alle altre, no? E questo ha portato una ventata, diciamo così, di interesse, soprattutto per le persone che avevano talmente tanti acciacchi che faticavano con le scarpe normali o perché invece fa davvero tantissimi chilometri. Arrivo, infatti, ad esempio, la nuova Oca con il carbonio, che hanno chiamato Carbon X, è stata usata da Gene Wemsey, che è un trailer, è ultra trailer, ultra runner americano, quando ha fatto il record delle 50 miglia, perché è una scarpa che va benissimo, è abbastanza più stabile, piuttosto più pesante rispetto alle Nike e le altre, ma decisamente dicono che sia fantastica per il conforto e per il sostegno anche sulla lunga distanza. Sulla lunga distanza in particolare è un po' proprio una chiave di lettura di tanti prodotti ASICS recentemente. La ASICS, che tra parentesi, permettetemi, è rimasto come brand quello un pochino più, diciamo così, travagliato dal fatto di vedere sfumare le Olimpiadi di quest'estate, perché ASICS era il main sponsor delle Olimpiadi. Lo sarà ancora tra un anno, però avevano già pronto una quantità di cose, di lanci, di eventi, di prodotti, eccetera. Poi hanno tolto le Olimpiadi, ovviamente per queste aziende c'è un danno anche economico, almeno per di più un po', recupereranno, credo. Ma l'ASICS invece ha puntato con la sua tecnologia e con la sua evoluzione delle scarpe recenti, dalla MetaRide in poi, proprio sul lungo, sulla scarpa che rende sul lungo. Okay. Infatti la loro scarpa da gara da carbone l'hanno chiamata MetaRacer, e uno dei loro payoff è Win the Long Ride, cioè vince nella gara lunga in sostanza, e perché sono scarpe che loro consigliano soprattutto per il lungo, anche perché hanno una geometria particolare, una curvatura tutta particolare dell'avampiede che si alza molto, è una curva molto progressiva, hanno un po' una sensazione di dondolare molto dolcemente sull'avampiede più che altre scarpe. La Meta Racer, comunque quella che la ASICS avrebbe debuttato a Tokyo, è tra parentesi una scarpa molto leggera, con proporzioni diciamo così più tradizionali rispetto alle mega scarpe degli altri, non è alta come la Nike, abbastanza più sottile, più svelta, però anche questa sembra che abbia un rendimento fantastico. Sono sicuramente tutte scarpe validissime. Da ultimo, almeno un brand che è molto presente in Italia, certamente anche la Saucony è pronta con delle scarpe, dovrebbe essere prossima, se non già in commercio da qualche parte, la Endorphin, di cui mi pare esistano due o tre versioni, una con il plate tutto in carbono e l'altra con il plate in materiali simili ma un po' meno costosi, un pelo meno rigidi. Abbiamo reso l'idea insomma di quelle che sono le novità. Tra l'altro parlavi di lunghe distanze e maratona e tutto, quindi insomma possiamo dire che anche nella scelta delle scarpe dobbiamo sempre valutare poi che utilizzo ne faremo, no? Assolutamente, ribadisco una volta di più il concetto fondamentale. Prima cosa, bisogna che chiunque sia se io sono un ragazzo che ho cominciato a correre adesso, sia se sono un ragazzo di 60 anni o giù di lì che comunque continua a correre, sia se sono invece un tapascione serio o anche un atleta di elite, rimane sempre fondamentale uno che la scarpa calzi bene il mio piede, che sia abbastanza spaziosa, che non mi stringa, che abbia spazio davanti, tutto quanto, che mi fasci bene l'arco plantare, che non mi scivoli il tallone dietro, queste cose qua fondamentali, proprio la bici. Certo. Due, l'altra cosa fondamentale è che qualsiasi tipo di scarpa deve avere, e qua questo vale anche per le scarpe da prestazione di cui parlavamo poc'anzi, però devo cercare di trovare la scarpa che combini, diciamo così, la risposta elastica di cui ho bisogno. A seconda del tipo di appoggio, a seconda delle caratteristiche, a seconda di quanto vado veloce, ogni tanto ci capita di trovare delle scarpe che hanno una risposta elastica che in gergo si dice in fase, cioè che tornano dopo che si sono compresse alla altezza iniziale esattamente al momento buono. Così facendo quel minimo di ritorno di energia, perché poi l'energia accumulata almeno in una scarpa normale è piccolina, è più quella che accumuliamo sotto l'arco plantare e nel tendine d'Achille, tra parentesi, tra il tendine di Achille e il tricipite della lessura, sono queste le parti del piede, diciamo così, le parti dei nostri arti dove accumuliamo maggiore quantità di energia elastica. E questo anche con una buona tecnica di corsa, diciamo. Assolutamente. Tecnica, soprattutto scarpe che permettono un buon allungamento del tendine d'Achille, quindi tendenzialmente più sono basse più permettono di accumulare energia elastica e la restituiscono dopo e via discorrendo. Quindi cercare una scarpa che sia comodissima, che abbia un ritorno in fase e poi che abbia la stabilità che ci serve, perché se io sono un cosiddetto iperpronatore, cioè uno che ruota tantissimo la caviglia all'interno, gioco forza, ho bisogno di una scarpa che mi controlla, altrimenti rischio di farmi male e il rischio diventa tanto più alto quanti più chilometri faccio, insomma. Sì. Yeah. Ok Filippo, grazie mille, noi siamo in chiusura, grazie come sempre, a presto. Grazie a voi, grazie a tutti e buona corsa a tutti, alla prossima. E anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast e vi ricordo che domenica prossima saranno con noi il coach Fabio Vedana e la nutrizionista Francesca De Riu, per cui se avete domande scrivete come sempre a personalbest@radio24.it. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.